le cose che ci sono state donate da Dio. Queste riflessioni non possono avere fine perché infinite sono le cose dell'Antico Testamento e ci da Dio. Una profonda sofferenza nel cuore mi accompagna ogni istante della vita. È la povertà spirituale nella quale vivono i figli di Dio. Povertà che li porta ad avere un atto negativo, conforme alla loro vecchia persona, quella naturale, nonostante abbiano a loro disposizione ricchezze immense. Per realizzare la vita vera, quella nuova e abbondante, promessa da Gesù ad ognuno che ponga fede in Lui. Dove sono i fiumi di acqua viva promessi da Gesù nella vita dei credenti? Perché i figli di Dio spesso manifestano il loro carattere attraverso un comportamento negativo? Quasi la totalità dei credenti pensa che il cristianesimo consista nel fare certe cose come non fumare o non andare al cinema. E, viene da chiedersi, se persistendo in una identità così debole, o meglio vissuta ancora nei canoni della vita naturale non rigenerata, questi credenti abbiano veramente capito che cosa Cristo, Gesù, voglia fare nella loro vita, o se siano ancora schiavi di una interpretazione sbagliata del cristianesimo. Un credente che cammini nella nuova identità, quella spirituale, ricerca le cose grandi di Dio, Salmo 111.2, e manifesta un cammino vitale, la cui prospettiva è focalizzata sulle cose possedute piuttosto che sulle mancanti. Colui che ha compreso i piani di Dio e i doni da Egli elargiti, ha una visione che lo abilita ad adattarsi alle circostanze della vita e a comportarsi in modo integro, realizzando le promesse di Dio. Bisogna riconoscere che, fino ad ora, avendo alle spalle un'eredità di concezioni errate, troppe persone hanno coltivato una fede di tipo ecclesiale, in virtù della quale è facile vivere bene la relazione con Dio nelle attività domenicali in modo particolare, mentre per il resto della settimana si sopportano le circostanze nell'attesa della vera vita o della vera soddisfazione che sarebbe espressa nel giorno di riposo. Le regole e i doni della fede, tuttavia, non possono valere in modo parziale o riguardano tutti gli ambiti esistenziali quotidiani o sono imbrogli. Perciò dobbiamo avere il coraggio di riconoscere i limiti delle nostre scelte e di volerle ampliare oltre i confini da noi stabiliti, con una creatività nuova. D'altra parte, anche la cultura nella quale viviamo e con la quale dobbiamo confrontarci con consapevolezza e onestà ci spinge in questa direzione. I metodi e i meccanismi del pensare, la struttura del pensiero, la capacità di rappresentare la realtà in modelli, di creare conoscenze e di saperle trasmettere sono sempre stati argomenti molto interessanti per gli studiosi delle diverse discipline in tutti i tempi. Ma nell'ambito cristiano non ha tanto valore l'approccio psicologico quanto la consapevolezza di possedere beni dalla portata insondabile. Così commenta la vita cristiana lo scrittore cristiano cinese Watchman Nee. Il progresso cristiano non consiste nel raggiungere un modello di riferimento astratto o di spingersi verso un traguardo. Il progresso spirituale avviene quando si scopre ciò che si è davvero, non quando si cerca di diventare ciò che si spera di essere, perché quel traguardo non sarà mai raggiunto anche se si lotta con convincimento di farlo. La sola possibilità di avere un progresso spirituale è nella scoperta della verità come la vede Dio. Se scopriamo questo, la nostra vita cristiana è rivoluzionata perché, anche se molti cristiani affermano che è sbagliato combattere e affaticarsi per le cose celesti, comunque lo fanno. Hanno imparato a considerare le cose del cielo come qualcosa da raggiungere. Perciò per loro il cristianesimo è uno sforzo. Cercano di essere quello che non sono e di fare quello che non possono fare. Combattono per non amare il mondo perché in realtà nel cuore lo amano. Si sforzano di essere umili perché nel cuore sono sicuri di sé. Che cosa deve fare quest'uomo? Casa editrice è 1 ottobre 2005, pagina 147-151. Queste riflessioni producono effettivamente una rivoluzione in chi le prende veramente sul serio. E viene da chiedersi, com'è possibile accontentarsi restando legati a un atteggiamento negativo di fronte alle promesse e ai doni di Dio? Chi è ricco in Dio e vive da povero è diviso nella sua persona. È positivo quando tutto va bene, quando tutto sorride, ama chi lo ama, è amico con chi dimostra di essere suo amico, Ma, come ogni altro mortale che non conosce Cristo, è negativo dove invece dovrebbe essere positivo, ossia 9 decimi della sua vita. Una simile condotta non può reggere a lungo, e un tale individuo finisce scegliendo di adagiarsi nella situazione che meglio gli corrisponde, penalizzando così ciò che possiede. Perciò, occorrono basi cristiane molto solide. Quando si vuole o si deve salire molto in alto, quando c'è, l'obiettivo è realizzare la pienezza di una vita vittoriosa sul male e sulle circostanze negative. Il vero cristianesimo si può indicare anche con una sola espressione. Vita abbonda Nuovo Testamento è qualsiasi cosa meno di questo non è più cristianesimo, ma un miserabile e inefficace surrogato. Un uomo di Dio disse che noi, di Dio, abbiamo quanto vogliamo. Questo vale anche per le cose che ci sono state donate da Dio, e se sono a disposizione di tutti, ma noi entriamo in possesso di questi incommensurabili doni soltanto nella misura in cui vogliamo riceverne, e la misura del nostro desiderio di Lui non è sempre quella che noi pensiamo, ma senza eccezione è quella che Dio vede. La mensa è preparata, sta a noi prendere e saziarci. Essendo fin da bambino uno che cerca la spiegazione agli interrogativi della vita, mi sono sempre chiesto da dove arrivi questo atteggiamento di povertà spirituale nell'affrontare le svariate situazioni della vita, o perché i figli di Dio siano continuamente tesi a chiedere a Dio ogni cosa. La conclusione da me ipotizzata è che siamo vittime di una eredità religiosa. Che cos'è? È questa eredità religiosa. Una eredità è ciò che si riceve gratuitamente da chi ci ha preceduto, mentre religioso è tutto ciò che noi vogliamo e dobbiamo fare per la nostra divinità. Perciò vivere come dei miserabili è un atteggiamento trasmessoci dalla religione, e poiché in Italia la religione predominante è il cattolicesimo romano, va da sé che la povertà spirituale nella quale vivono i figli di Dio sia stata trasmessa principalmente dalla religione romana. Un esempio di attitudine negativa nei confronti di ciò che si possiede possiamo vederlo in uno degli esponenti più significativi del cattolicesimo romano, Tommaso d'Aquino. Vi è una sua preghiera che da alcuni figli di Dio può essere considerata, e a volte lo è, come modello perché ha in sé dei buoni contenuti moralistici. Nulla di strano. Ogni religione ha i suoi buoni aspetti morali. Poiché abbiamo una natura che tende anche al bene, è evidente che tutto ciò che luccica di moralismo attira, e purtroppo a volte acceca anche, coloro che hanno posto una vera fede in Gesù Cristo quale Salvatore e Signore. La preghiera di Tommaso è la seguente. Dammi, o Signore, un cuore fermo, che nessun sentimento indegno possa trarmi giù. Dammi un cuore indomito, che nessuna tribolazione possa logorare. Dammi un cuore retto, che nessuna proposta indegna possa allontanarlo. Dammi ancora, o Signore mio Dio, discernimento per conoscerti, diligenza per cercarti, saggezza per trovarti e fedeltà affinché io possa abbracciarti per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Poiché la vita terrena è un'esistenza piena di necessità, le nostre preghiere inevitabilmente sono indirizzate alla richiesta, e chiediamo ovviamente solo quello che ci manca. Nessuno di noi chiede di poter vedere o udire se abbiamo la vista e l'udito buoni. Se invece siamo ammalati o stiamo attraversando un momento di difficoltà, è inevitabile che ci rivolgiamo a Dio con preghiera di intercessione. Noi dunque ragioniamo, parliamo, preghiamo in funzione di quello che conosciamo di possedere. Se abbiamo bisogno di qualcosa ma senza esserne coscienti, non lo chiediamo. Se, viceversa, siamo in possesso di qualcosa ma a nostra insaputa, lo chiediamo lo stesso. È evidente che Tommaso non avesse un cuore retto, un cuore indomito, non aveva discernimento né saggezza, altrimenti non avrebbe chiesto queste cose. Se invece avesse già posseduto ciò che chiedeva, perché le avrebbe ancora chieste? Pregare intelligentemente, con cognizione di causa, essendo consapevoli di possedere ciò che si ha, non è dunque facile. si possono commettere errori di vario genere, peccati più o meno gravi, dei quali a mio avviso il più frequente e il più dannoso è chiedere cose che Dio ci ha già donate, perché disonora il donatore e rende povero chi è già stato arricchito. In merito a questo argomento, l'Apostolo Paolo ha scritto: «Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio». Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. 1 Corinzi 2:11-12. In molti ambienti è esaltato lo Spirito Santo, come se fosse una potenza, e, nel suo nome, alcuni cercano di compiere ogni tipo di opere potenti o miracoli. Ma alla maggioranza sfugge il fatto che la persona dello Spirito Santo è stata data al credente perché possa principalmente conoscere ciò che possiede e, di conseguenza, non stia a chiedere inutilmente. Ciò che deve fare il credente è solo realizzare e godere i beni a sua disposizione. Dio vuole che la nostra preghiera sia trasformata dalla richiesta alla lode, perché la vita cristiana è principalmente una vita di riconoscenza. L'imperativo «siate riconoscenti», Colossesi 3:15, è più che mai da tenere in considerazione nelle nostre preghiere, non solo. Una tale riconoscenza è in grado di trasformare il cammino del credente, come è scritto. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Ebrei 12:28. Non è dunque una speculazione filosofica il voler conoscere ciò che si possiede, dato che la giusta conoscenza dei beni spirituali produce una rivoluzione nella vita di chi ha posto fede in Gesù. Una rivoluzione consistente nel consacrare la propria vita al Salvatore delle anime, come atto di riconoscenza. Se poi a questa gratitudine si aggiunge la conoscenza di ciò che si è ricevuto, allora non vi è nulla al mondo che possa fermare un cuore vinto dall'incommensurabile ricchezza di Cristo Gesù. Prendiamo allora in esame alcune cose che Dio ci ha già donato e per le quali non dobbiamo chiedere. 1. Lo Spirito Santo. Forse non abbiamo dato né abbastanza né adeguata importanza a questo dono, anche perché per molti di coloro che si professano cristiani esso non occupa un posto centrale nella loro esperienza di fede. In un periodico evangelico furono poste varie domande ad un noto teologo in merito allo Spirito Santo, e alla domanda «come si riceve lo Spirito Santo?» il teologo rispose «non si sa». Per quanto invocato e atteso possa essere, nulla e nessuno possono obbligarlo a venire, né una volta venuto, incatenarlo e tenerlo al guinzaglio. Proprio per questo non si può dire quando si riceve lo Spirito Santo. Il nostro lettore pensa che lo Spirito Santo venga quando si giunge a credere in Cristo. Io direi che quando si giunge alla fede lo Spirito ha già lavorato a lungo segretamente, nell'intimo della persona per portarla alla fede. Lo Spirito viene non con la fede, ma prima della fede. Riforma, giugno 2010. Questo discorso mostra come non tutti abbiano le stesse vedute in merito allo Spirito Santo, specialmente tra credenti in Cristo. Il teologo, per quanto ho capito in piena armonia con la fede che professa, ha confuso l'opera dello Spirito Santo con il dimorare dello Spirito nel credente. Che tutti gli uomini, nessuno escluso, siano totalmente depravati, corrotti, incapaci di scegliere e di cercare Dio, RM 3.11 lo dice tutta la Scrittura, e, proprio per questo, nel suo amore Dio opera nel cuore dell'uomo, prima ancora che in lui sorga qualsiasi sentimento religioso. Nel libro dell'Ecclesiaste sta scritto: «Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità». Eccecca 3.11. Il salmista disse: «Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, o Eterno». Esl 27.8. E Gesù esclamò: «Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre, che mi ha mandato». Gv 6.44. Dunque Dio ha messo nell'intimo di ogni essere umano la verità riguardo alla propria esistenza e alla prosecuzione della vita dopo la morte. Lo dimostrano tutte le religioni il cui credo contempla la visione di un'esistenza dopo la morte. Il salmista riconosce che, se cerca Cristo, è perché ha ricevuto un tale stimolo da Dio. Gesù testimoniò che nessuno avrebbe potuto credere in lui se non ci fosse stata prima l'opera di Dio. Ogni altro ragionamento, in merito all'uomo, anche quello della totale corruzione, deve tenere presente questi presupposti, cioè che Dio fa nascere una buona volontà in una persona totalmente corrotta, in modo che possa credere ed essere salvata. Tutto questo tramite la persona dello Spirito Santo. Ma dopo la resurrezione di Gesù, lo Spirito di Dio è stato promesso a tutti coloro che hanno posto fede nel sacrificio espiatorio di Gesù. Questo è quanto insegna la Scrittura. Infatti, quando Gesù disse: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva». L'Evangelista Giovanni commenta così la sua affermazione. Ora egli disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. G. Conto V. 7.3739. Se vi sono dubbi sul momento nel quale si riceve lo Spirito Santo e se vi è dello sgomento per timore che venga tolto, è solo questione di incredulità. Una incredulità nei confronti della Scrittura, che teologi e biblisti mostrano più volte, come scrive Matthew Henry nel commentario al Salmo 51. Commentario biblico, volume 8, tag. 280. Molti credenti sono abituati a parlare dello Spirito e sanno che si riceve nel momento della conversione, senza rendersi conto di stare vivendo il periodo della realizzazione delle promesse espresse da Dio millenni di anni fa. Ricordate cosa disse Mosè a Giosuè, perché era geloso che lo Spirito di Dio si fosse posato su due persone indegne? Così è scritto nel libro del Deuteronomio. Allora l'Eterno scese nella nuvola e gli parlò, e prese dello Spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani. Or quando lo Spirito si posò su di loro, profetizzarono, anche se in seguito non lo fecero più. Ma due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento, e lo Spirito si posò anche su di loro. Essi erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda, ciò nonostante profetizzarono nell'accampamento. Un ragazzo corse a riferire la cosa a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento». Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, uno dei suoi giovani, prese a dire: «Mosè, signor mio, falli smettere». Ma Mosè gli rispose: «Sei forse geloso per me? O fossero tutti profeti nel popolo dell'Eterno, e volesse l'Eterno mettere il suo spirito su di loro». DT 11.11.17-25-29. Chi possiede lo spirito, quello santo, ed è cosciente dell'azione che esso compie, non può fare a meno di desiderare che altri possano vivere controllati dalla sua persona, perché è una tale benedizione ed esperienza che ritenerla solo per sé sarebbe un vero delitto. Il profondo e sincero desiderio di Mosè era che tutti i credenti ricevessero lo Spirito, cosa che si sta avverando dalla resurrezione di Cristo in poi anche su quei credenti che disprezzano tale dono, vivendo un'esistenza che non onora Dio. Cosa comporta avere lo Spirito Santo? Infinite benedizioni, ma io ne elencherò solo 7. 1. Media Nuovo Testamento, e lo Spirito S.I. è partecipi dell'Antico Testamento, U.R.A. Divina, 1 Pietro, 1.24. Lo dice Pietro nella sua prima lettera. Grazia e pace vi siano moltiplicate, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. 1P1.24. Dopo 2000 anni un simile discorso può anche dirci poco. Ma il pensiero di avere la natura dell'Onnipotente Dio, del Dio Trino, l'idea, caratterizzante la fede cristiana, di essere come Lui, che quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. 1GV 4.17, è unica nella storia delle religioni. Infatti chi pone fede in Cristo diventa figlio di Dio non solo di nome ma anche di fatto, assumendo la natura di Dio, come dice Giovanni nella sua prima lettera. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio? E tali siamo. 1 GV 3.1. Se fossimo in grado di capire il valore di questa posizione, se fossimo capaci di essere sempre coscienti di chi siamo diventati, come cambierebbe la nostra vita? Essere divenuti figli del re dei re, vuol dire essere nella gioia e nell'abbondanza. Anche quando il male impera, perché quando si è figli, tali si rimane in ogni occasione. 2. Media Nuovo Testamento e lo Spirito, possiamo conoscere le cose che Dio ci ha dato nell'Antico Testamento e 1 Corinzi 2. È proprio una assurdità per delle creature limitate come siamo volere poter conoscere Dio, perciò. Dio stesso ha provveduto un mezzo per farsi conoscere, facendoci partecipi non solo della sua natura per mezzo della persona dello Spirito Santo, ma anche degli insegnamenti de... Paolo lo dichiara in questo modo. Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. 1 Cor 2.11. 12. Il ragionamento di Paolo non fa un piega, perché nessun animale avendo un diverso spirito da quello dell'uomo può comprendere il pensiero di una creatura umana. Così, come può un essere umano capire un Dio, che è infinitamente al di sopra delle sue creature? È vero che l'uomo è l'unica creatura fatta a immagine di Dio, ma è anche vero che ha perso il contatto morale e spirituale con il suo creatore. Ecco perché Dio stesso ha provveduto a donare la persona dello Spirito Santo, affinché egli possa insegnare ciò che appartiene a Dio. Infatti, l'uomo naturale, cioè non rigenerato, non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere poiché si giudicano spiritualmente, 1 Cor 2.14, e se le comprende non è in virtù di una capacità umana, ma divina. Per questo, non dobbiamo stupirci se chi ascolta il Vangelo non comprende ciò che ode. Occorrerebbe stupirci del contrario, piuttosto. 3. La persona dello Spirito S al Nuovo Testamento manifesta le sue carantico testamento teristiche nel Crede Nuovo Testamento e 1 Corinzi 12.7-11. Tutti gli uomini dalla nascita hanno delle capacità umane, che poi mettono in evidenza nella loro esistenza, ma ci sono capacità proprie del regno di Dio, cioè i doni che manifesta lo Spirito Santo nella vita del credente. Queste caratteristiche e manifestazioni dello Spirito sono espresse mediante le capacità naturali, ma sarebbe un errore confondere o interscambiare le manifestazioni dello Spirito con le capacità umane. Se io sono un professore di italiano e ricevo lo Spirito Santo, se in seguito manifesto una capacità di insegnamento delle dottrine cristiane, lo Spirito di Dio userà, sì, le mie capacità umane per trasmetterle. Ma la comprensione di esse non sarà merito della mia intelligenza umana. Esse devono essere rivelate alla mia mente dallo Spirito di Dio, per poi essere trasmesse ad altri per mezzo della mia sapienza e del mio carattere. Questo spiega perché le lettere dell'Apostolo Paolo siano diverse nel tono e nello stile dalle lettere di Pietro, di Giovanni o di Giuda. 4. Media Nuovo Testamento e lo Spirito, preghiamo come se gli conviene Romani 8.26. Quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, vivificherà anche. È molto importante per un credente sapere quale tipo di Spirito ha ricevuto, perché se si ferma solo sul fatto di aver ricevuto uno spirito non risulterà diverso da tutti coloro che sono posseduti da uno spirito malvagio. È proprio per questo che di tanto in tanto l'Apostolo Paolo spiega alcune caratteristiche proprie dello Spirito di Dio, nella lettera ai Romani come anche in altre, capitolo 8, ne espone alcune. Versetto 5. I vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Non dobbiamo sottovalutare questa opera dello Spirito di Dio perché quasi periodicamente sorgono persone che dicono di parlare per lo Spirito Santo, ma se non pensano alle cose dello Spirito, non cercano la vita di Cristo e la sua pace, non possono appartenere a Cristo né sono guidati. Chi appartiene a Cristo possiede una testimonianza interna attestante che queste persone non sono da Dio. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Un'altra opera indispensabile che compie lo Spirito Santo nel credente è in merito alla preghiera. Così ne parla Paolo. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo, Abba, Padre, allo stesso modo ancora. Lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo spirito intercede per noi con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. RM 8.15-26-27. Con lo Spirito Santo, il genuino credente sente il bisogno di rivolgersi a Dio come padre, avverte l'esistenza di una santa e profonda relazione di figliolanza, in virtù della quale non è più preda della paura. Quella paura che lo bloccava prima della conversione. Non solo. Poiché nessuna persona è in grado di rivolgersi a Dio nel modo giusto, essendo la nostra natura profondamente egoista e perversa. Lo Spirito Santo, che abita in lui, intercede per il credente, rendendolo in grado di rivolgersi a Dio come si conviene, cioè nel modo adatto, opportuno. Questa è una grande consolazione e serenità, perché se fossimo ancora in balia della nostra natura corrotta, saremmo i più miserabili e disperati fra i religiosi. Aver ricevuto lo Spirito Santo è veramente uno straordinario dono. 5. Media Nuovo Testamento e lo Spirito sappiamo come comportarci e cosa dire. Giovanni 3.8. Diventare la guida del credente è la normale conseguenza delle funzioni dello Spirito Santo perché se intercede, se consiglia, se illumina, se rivela, adempie così il compito di guida o di conduttore. Così si è espresso Gesù, lo Spirito soffia dove vuole e tu ne odi la voce, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato. Dicendo queste parole, Gesù ha scardinato l'idea romantica di una vita cristiana tranquilla e gestibile. Ha voluto far sapere che nel regno di Dio non vi è nulla di stabile, di sicuro o di programmabile, ma con la sua sovranità Dio conduce i suoi figli dove vuole, come vuole e quando vuole. Questa verità calata per esempio nel culto della domenica dove orari e liturgie sono fissate e osservate da generazioni, entra con una violenza ciclopica tale da disorientare i credenti, i quali piuttosto che trovarsi in difficoltà per essere stati guidati in maniera imprevista, preferiscono la routine di ogni giorno. È vero che i credenti in genere vorrebbero essere guidati dallo Spirito di Dio? È altresì vero tuttavia che lo vorrebbero a modo loro, e questo non è possibile. Nello scrivere il suo secondo libro, quello degli Atti, lo storico Luca mette in evidenza come la Chiesa nascente fosse guidata del continuo dallo Spirito di Dio. Inizia col dire, innanzitutto, che Gesù ha dato dei comandamenti per lo Spirito, 1-2, poi, che l'Apostolo Pietro per lo Spirito pronunzia il primo sermone evangelico, 4-8, mette in evidenza che Stefano nel morire pieno di spirito vede la gloria di Dio, 8-5, spiega che Filippo, sempre condotto dallo spirito, si incammina in una strada deserta ed evangelizza l'eunuco, 8-29. Sempre mediante la persona dello Spirito Santo, l'Apostolo Pietro usa la seconda chiave datagli da Gesù ed evangelizza i gentili, 10-19. Mentre Paolo e Barnaba, sempre guidati dalla persona dello Spirito Santo, non evangelizzano certe regioni, ma approdano in Macedonia, dove avranno buoni risultati, 16-6-8. La vita cristiana è condotta dallo Spirito Santo, diversamente, sarà vissuta per la carne, RM 8-14, sottomessa cioè agli impulsi naturali individuali, e a una morale non rinnovata da Dio. 6. Media Nuovo Testamento e lo Spirito, rifiutiamo il peccantico testamento, Galati 5-17. In molte persone abita il desiderio di non compiere il male, ma non sono capaci né di sapere in cosa consista il vero bene, né sono capaci di adempierlo. Anche il credente si troverebbe in questa situazione, se non fosse che nel ricevere lo Spirito Santo ha in sé un impulso e la capacità di rifiutare il peccato. L'Apostolo Paolo lo dice in questa maniera: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. La santità del cristiano non è il risultato di un suo sforzo, ma dell'opera dello Spirito Santo, che in qualche modo gli impedisce di peccare. Se il credente pecca è perché resiste, Atti 7,51, contrista, Efesini 4,5, Isaia 63,10, tenta, Atti 5,9, spegne. 1 Tessalonicesi 5 e 19, mente, Atti 5, 3 e oltraggia, Ebrei 10 29, la persona dello Spirito. Come dire, il peccato si compie proprio perché lo si vuole. 7. Media Nuovo Testamento e lo Spirito, sappiamo di appartenere a Dio. 2 Cor 5.5. Così troviamo scritto nella Bibbia. Or colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Il dizionario definisce caparra quella somma di denaro data da una parte all'altra in occasione della conclusione di un contratto a garanzia dell'esecuzione dello stesso. Se consideriamo la parola caparra non come un semplice dettaglio espressivo per dare vivacità all'immagine, ma quale avente un suo significato dottrinale, significa che lo Spirito Santo è una garanzia che Dio dona al credente per fargli capire che la sua appartenenza a Lui è più che sicura. Avere lo Spirito Santo è molto più che avere un semplice dono. Una vita abbondante. Nessuno di noi si accontenta di poco o del minimo indispensabile. Dio ci ha creati perché noi desiderassimo per istinto sempre di più e il meglio. Se non fosse così, nel mondo non ci sarebbero progressi. Dio conosce questa nostra inclinazione e non la disprezza al punto che non invita i suoi figli ad essere poveri, ma ricchi, MT 6, 19-21. È evidente che Dio vuole che noi possediamo la vera ricchezza e non quella fasulla. Perciò la vita cristiana non è un'esistenza trascinata, ma pienamente abbondante. Infatti, o la vita cristiana è abbondante o non è vita cristiana. E non può essere che tale, perché abbiamo un padre ricco. A. Verso tutti. Ro 10 e 12. B. In misericordia. E. F 2, 4. C. In bontà e fedeltà. S 34, 6. Cos. E allora che impedisce una vita abbondante? E. Possibile trovare una risposta nella parabola del seminatore? Miti 13, 1-23. Dove il terreno rappresenta i cuori degli uomini e il seme, la parola di Dio. Quando il credente predica il Vangelo, incontra quattro tipi di ascoltatori: uno, quelli che non comprendono il messaggio di Dio; due, chi non ha una comunione segreta con Dio e, alle prime difficoltà, abbandona la verità; tre, alcuni per gli impegni e i piaceri della vita sono impediti a seguire Cristo e il denaro diventa il loro padrone; quattro, mentre il quarto fra gli ascoltatori risponde: perciò, la vita abbondante è riservata a coloro che hanno posto una fede salvifica in Cristo e fanno tesoro di ciò che hanno udito, ritenendolo più importante delle ricchezze e degli onori di questo mondo. Ma una cosa è la diagnosi, un'altra è sapere come realizzare una vita abbondante e, una volta realizzata, capire come mantenerla. La terapia è sempre quella: conoscere ciò che Dio ci ha donato, crederci e realizzarlo. Il primo scalino di questa scala spirituale non può essere saltato neppure dal più bravo dei credenti, perché non è possibile gioire di quello che non si sa di avere. Questa è una delle ragioni per cui Dio ha fatto scrivere la sua parola. La parola di Dio non si legge per assolvere a un dovere religioso e casomai con noia e pesantezza, ma con il desiderio di imparare tutto ciò che Dio ha fatto e ci ha donato. La gioia cristiana non è un sentimento voluttuoso, ma una realtà scaturente dalla consapevolezza della nostra comprensione. Quando sappiamo di essere stati amati, ameremo. Quando sappiamo come Gesù ci ha amati, sapremo come dobbiamo amare il prossimo. Quando sappiamo come Gesù ci ha serviti, sapremo come servire il prossimo. Quando si parla di vita abbondante ci si deve guardare da un errore comune dovuto alla nostra cultura greca, pensare di compiere cose straordinarie. Si possono certamente fare anche cose straordinarie come accadde a Mosè, Elia e Eliseo, ma una vita abbondante non si misura da queste cose. Anche perché di Giovanni il Battista, il quale non fece nessun miracolo, Gesù disse che tra i nati di donna nessuno era più grande di lui, Matteo 11:11. Neppure si può pensare che una vita abbondante consista in una esistenza esente da dolori, perché il profeta Eliseo morì di malattia e l'apostolo Paolo aveva nel suo corpo un continuo dolore. Dirò di più. Una vita vissuta per lo Spirito Santo spesso non è vista, né compresa da fuori. Colossesi 3:3, perché quando si è condotti dallo Spirito di Dio, agli occhi altrui, si può finanche sembrare fuori senno, dato che si compiono anche cose fuori dall'ordinario. Quando nel libro degli Atti leggiamo che, nel giorno della Pentecoste, gli apostoli e i discepoli di Cristo, ripieni di Spirito Santo, parlavano nelle lingue degli altri popoli, seppure non le avessero mai conosciute, chi udiva, sapendo che erano giudei, pensava che fossero ubriachi, e schernendoli diceva, sono pieni di vino dolce. Atti 2:13. Dato che l'uomo naturale non comprende le cose di Dio perché le giudica pazzia, è normale che un cristiano a volte possa risultare anormale agli occhi delle persone normali. Che una vita condotta dallo Spirito Santo possa risultare anomala, lo dice anche Paolo in una lettera, quando ordina «Non ubriacatevi! Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito» e F5:18. Come dire, se siete ubriachi, non siatelo per mezzo del vino, ma perché siete ripieni dello Spirito di Dio. Come mantenere, allora, una vita abbondante? 1. Conoscere e appropriarsi delle promesse di Dio. 2. Rallegrarsi sulle promesse di Gesù Cristo. 3. Vivere nella posizione stabilita da Dio. 4. Riconoscere e confessare ogni peccato. 5. Essere impegnati nel fare del bene al prossimo. 6. Accettare le circostanze della vita da parte di Dio. Una vita condotta dallo Spirito Santo ha come caratteristiche i frutti dello Spirito, dei quali Paolo fa il seguente elenco: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine. Se non vi sono questi risultati, è inutile rimanere convinti di essere condotti dallo Spirito di Dio. Dobbiamo credere più alla Scrittura che alle nostre convinzioni. Altra verità da tenere presente, il pensiero che un'esistenza abbondante porti ad abbondanti risultati umani nella vita. Niente di più falso. Quando l'apostolo Paolo scrisse «Or si è ringraziato Dio il quale ci fa sempre trionfare in Cristo» ai credenti di Corinto, i quali persistevano nella loro carnalità, non stava vantando di ottenere grandi vittorie tipo militari o in altri settori della vita. Perché, ha testimoniato, riferendosi anche agli altri apostoli, noi siamo pazzi a causa di Cristo. Siamo deboli. Siamo disprezzati. Fino a questo momento noi abbiamo fame e sete. Siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. 1 Corinzi 4:9-13. Niente di eclatante, perché le vittorie o i trionfi non sono solo in campo militare, ma trionfare è possibile anche in altri settori, come in una conversazione, in una gara sportiva o in uno spettacolo. Infatti di quest'ultimo a volte si dice «è stato un trionfo». Così la vita abbondante, mediante la quale il credente può trionfare, è prima di tutto riferita alle reazioni di fronte all'ingiustizia. E questo è il punto cruciale per un cristiano e anche per tutti gli altri uomini. In effetti, ci sono persone trionfanti in molti settori della vita, ma le quali sono in seguito vittime delle ingiustizie degli uomini, come dei piaceri della vita, del cibo, del bere, dei vestiti e dello sperpero di denaro. Non a caso la Scrittura dice chi è lento all'ira vale più del prode guerriero, chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Proverbi 16:32. Ecco la vita vittoriosa, nell'abbondanza e nelle necessità ci si accontenta, e quando si è insultati, perseguitati, calunniati, si benedicono i propri nemici, si prega per essi, si esorta nonostante tutto, si sostiene un peso per l'amore, si parla bene di chi parla male di te. Questa è la vera vita abbondante. Mentre agli occhi degli uomini, una vita abbondante è vincere chi è più debole, è essere sempre sulla cresta dell'onda. È umiliare il prossimo, è avere onore e successo, è riuscire ad essere stimato a qualsiasi costo. È avere una mente disonesta pur di realizzare i propri scopi. Chi segue la via stretta di Cristo abbonda nel lasciare che la persona dello Spirito Santo operi in lui. Non si può trionfare sulle circostanze della vita, sugli uomini, sul male e l'ingiustizia, se prima non si è vittoriosi sulle proprie inclinazioni malvagie. E, dato che nessun essere umano è in grado di vincere le proprie debolezze e mancanze, solo chi si arrende totalmente e senza riserve al volere di Cristo realizza di essere stato benedetto nell'aver subito la sconfitta della sua malvagia volontà. Realizzi tu questo tipo di vita abbondante. 1. Uno spirito di forza. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza. 2 Tim 1, 7. Stigma. Non tutti sono a conoscenza di questa parola e del suo contenuto, eppure è una drammatica realtà quotidiana. Lo stigma è ciò che trasforma la disability in handicap, ossia una situazione di oggettivo deficit di funzionamento in una situazione socializzata di svantaggio. Come dire, già sei storpio, hai dei problemi di comunicazione, sei mentalmente ostacolato o limitato, in più la società, con tutte le sue burocrazie, ti rende la vita difficile, ostacola la cura, tanto da rappresentare una seconda malattia. Chi si trova in queste condizioni, magari in gravi difficoltà, vede nel suicidio l'unica soluzione possibile. Le persone che soffrono dei disturbi psichici, dovuti all'abuso di sostanze alcoliche, su scala mondiale ammontano a 500 milioni, dei quali almeno 150 milioni soffrono di ansia e depressione. Numeri che sono destinati a crescere con la perdita del posto di lavoro e i tanti problemi di comunicazione. Questo perché, per quanto si predichi da vari pulpiti sociali e morali, viviamo in una società che tende a escludere l'altro in quanto diverso e a vederlo come nemico. E un marchio che la società imprime sul disagiato psichico. Questo atteggiamento prende il nome di stigma. Partendo dal presupposto della grande trascurata verità, secondo la quale un figlio di Dio, prima di essere un credente, è un essere umano a tutti gli effetti come chiunque, la questione dello stigma lo riguarda molto da vicino, perché anche lui, meno come tutti, meno ha degli oggettivi deficit di funzionamento, che possono essere fisici, morali o spirituali. Se sono fisici, l'evidenza è alla portata di tutti. Se sono di natura immateriale, la situazione diventa molto più seria. Perché l'orgoglio, il desiderio di possesso, l'ambizione di potere, la disperata sete di stima e di onore possono diventare veramente una seconda malattia. Una simile diagnosi, riconosciuta e accettata, potrebbe portare a un profondo sconforto chi desidera vivere per onorare Dio. Ma ancora una volta il messaggio evangelico, meno che non è utopia, è in grado di risuscitare non solo i morti fisicamente, ma anche quelli che tendono a o sono nella più disperata depressione, la cui esistenza è in continuo bilico tra il vivere e il non esserci. Con che cosa? Con parole di conforto? Credo proprio di no, perché sono molti coloro che le dicono per circostanza e, a volte, anche inopportunamente. Per essere liberati da una situazione di oggettivo deficit di funzionamento e da una situazione socializzata di svantaggio, occorre una nuova forza, una forza che non dipenda da noi. E questa solo Dio la può dare a chi riceve la sua natura divina mediante lo Spirito Santo. Appunto, la promessa è: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza. Quando si parla di forza, di ricevere forza al momento opportuno, si pensa ad una situazione difficile o tragica nella quale Dio intervenga per poi mettere tutte le cose a posto e ritornare così a poter vivere come prima. Se non come prima, almeno in una situazione nella quale si sono risolti i problemi più grossi. Ma non sempre è così. La seguente testimonianza dimostra come Dio sia in grado di darci forza, pur non risolvendo alla radice il problema. Dopo un'infanzia felice, ho rotto i ponti con la mia famiglia in seguito ad un terribile malinteso. Mia madre mi aveva insultata e schiaffeggiata in pubblico dicendomi parole terribili, al punto che ho finito per trangugiare tanti sonniferi, sufficienti per non svegliarmi più. Dopo un mese di coma, ho lasciato la religione per seguire studi di ingegneria. Per la rabbia, sono vissuta nel più completo disordine, sempre più amareggiata e angosciata. Tuttavia, i miei studi, che mi piacevano molto, andavano bene. Alla mia prima lezione di scuola guida, l'istruttore mi ha chiesto: «Lei vorrebbero conoscere la pace?» Ne avevo un bisogno vitale. Mi ha dato un Nuovo Testamento. Nei giorni seguenti ho letto il Vangelo di Giovanni e ho creduto nel Signore Gesù Cristo. Io, di cultura musulmana, ho avuto finalmente la certezza che Gesù Cristo era proprio il Figlio di Dio. Ho ricevuto una pace inesprimibile, divina. 7 mesi dopo la mia conversione, ho avuto un terribile incidente e sono caduta in un buco nero. Avevo perso la vista. Depressione, rivolta, interrogativi, angoscia. Perché? Ma perché? Alcuni amici hanno avvertito dei cristiani che sono venuti a visitarmi e mi hanno ascoltata, recandomi conforto, trattandomi con delicatezza, con amore. A poco si è stabilita una relazione di fiducia tra una ragazza e me. E, venuta a prendermi ogni domenica, e, lentamente, pur essendo cieca, sono emersa dal buco nero alla vera luce. Per molto tempo non ho capito perché Dio avesse permesso quell'incidente, ma oggi, nonostante la mia dipendenza fisica, ho scoperto la vera gioia, la vera libertà, e ho veramente scelto di vivere per Cristo Gesù, il mio Signore. In questa testimonianza rimango toccato dalle parole: ho scoperto la vera gioia, la vera libertà. Come? Non era forse felice questa ragazza quando ci vedeva? Non era forse libera? Certamente lo era, ma solo dopo il buio totale degli occhi, e anche quello dell'anima, ha ricevuto una forza divina, che le ha permesso di realizzare ciò che lei non avrebbe mai pensato. Continuo ad essere convinto che noi, in genere, abbiamo un concetto molto romantico del cristianesimo e delle vie di Dio. E per romantico intendo idealizzato dai sentimenti, estasiato, fuori dalla realtà. Parliamo di Dio e del suo operato, senza renderci veramente conto di quello che stiamo dicendo. Un po' come quei bambini di 7-8 anni che cantano appassionatamente canzoni d'amore di un uomo verso una donna, e viceversa, senza comprendere ciò che cantano. Così, quando pensiamo alla forza di Dio, la paragoniamo alla nostra forza cinetica, cioè a quella capacità di compiere il dovuto. Quindi, se abbiamo bisogno di forza per resistere ad una tentazione, o alla capacità di stare calmi, ci aspettiamo di sentire una certa capacità di resistere, o di stare calmi, ma purtroppo non avvertiamo proprio nessuna forza, nessuna nuova energia, così restiamo delusi. Delusi nelle nostre aspettative, sfiduciati del Dio che avevamo creato a nostra immagine e somiglianza. E la fede vacilla. Forse non abbiamo la vera fede? Perché non proviamo la forza che Dio ha promesso a tutti, coloro ai quali ha dato lo Spirito Santo? Intanto, qualcosa sta succedendo. Più ci rendiamo conto di non aver nessuna forza in grado di aiutarci a resistere alle tentazioni o a rimanere calmi, più prendiamo maggior coscienza della nostra profonda debolezza e incapacità. Tutto si sta ribaltando. Mentre mi aspetto di ricevere forza, non ricevo altro che consapevolezza della mia estrema incapacità di vivere per Dio. Questa è l'opera di Dio, ma io non la comprendo. Continuo ad aspettare di ricevere la forza. Così, nella mia più totale e disperata sconfitta, inizio a confidare in Dio. inizia a rimettermi completamente e totalmente nelle sue mani e, come per miracolo, che è concretamente un miracolo, nella mia debolezza avverto un'altra forza che non mi appartiene, capace di farmi resistere alle tentazioni e di farmi stare calmo. Quella forza che appartiene alla persona dello Spirito Santo. Solo allora comprendo appieno le parole di Paolo, perciò io mi diletto, cioè trovo piacere nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Infatti, Dio gli aveva detto: la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Queste sono le vie di Dio. Il Dio dei cristiani compie ogni cosa secondo le sue promesse, ma le compie anche come Lui ritiene opportuno. Se Cristo ha ottenuto la vittoria sul male e sul maligno mediante la sua debolezza, 2 Corinzi, chi siamo noi di voler vincere mediante la nostra forza? Se la debolezza di Dio è più forte degli uomini, 1 Corinzi 1:25, perché guardiamo alla nostra forza? Se i credenti vittoriosi hanno tratto forza dalla debolezza, Ebrei 11:34, dove possiamo trarre la nostra forza quotidiana? Domande che hanno una sola risposta: in Dio. 2. Uno spirito di amore. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di amore, 2 Tim 1, 7. Sta scritto nella parola di Dio che nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. 1 Giovanni 4.18. Dunque, la paura e l'amore sono in antitesi, come per la salvezza, le opere e la grazia. La paura non è una creatura di Dio, ma è sorta dopo il peccato di Adamo ed Eva. Infatti, Adamo ed Eva vivevano in piena armonia con il loro creatore, ma quando disubbidirono al comando del loro Dio, si allontanarono dalla sua presenza e allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto». Genesi 3.9-10. Da quel momento, tutta la razza umana è soggetta alla paura e, più si avvicina al Dio tre volte santo, più prova paura. Esodo 3.6. O, come testimoniò il profeta Daniele, in lui non rimase più forza. Il bel colorito cambiò in un pallore e le forze gli vennero meno. Daniele 10.8. Perciò è normale per delle creature limitate e mancanti come la razza umana avere paura più o meno marcata della sua divinità. E questo Dio lo sa, perciò l'unico modo perché l'uomo si avvicini a lui correttamente sarebbe togliergli la paura, ma nel fare questo toglierebbe anche parte della sua umanità. Per Dio non vi è altra soluzione per riuscire nel suo intento se non trasformarlo in un uomo nuovo, con uno spirito nuovo, cosa che ha fatto, rendendolo partecipe della sua natura divina mediante il dono della persona dello Spirito Santo. Così si esprime al proposito l'Apostolo Paolo: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo «Abba Padre», Romani 8.15. Dunque la persona dello Spirito Santo non è solo potente come il Padre e il Figlio, ma è anche partecipe dell'amore. Per questo Paolo ha potuto scrivere ai Romani: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5.5. Quindi tutti coloro che hanno posto una reale fede salvifica in Cristo, quando realizzano la nuova nascita per mezzo dell'azione della persona dello Spirito Santo, ricevono automaticamente anche l'amore di Dio, non nella sua totalità, ovviamente, ma della stessa natura, come dell'acqua di mare contenuta in una tazza, che ha la stessa natura di tutta l'acqua dell'immenso oceano. In questo modo, è possibile dire con l'Apostolo Giovanni: quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. 1 Giovanni 4.17. Una affermazione molto ardita, ma tipica ed esclusiva di una fede non paragonabile a nessun'altra religione. Dio ha reso capace la sua creatura niente meno che di amare come lui ama. Ma nell'uomo credente esiste ancora la natura adamitica originale, che lo rende ricalcitrante ad avvicinarsi a Dio, inoltre la paura neppure con la nuova natura divina è stata tolta. Perciò egli sperimenta in se stesso un dualismo non indifferente, cioè prova ancora paura di Dio, ma contemporaneamente sente pure l'impulso di chiamare Dio in modo affettuoso, papà. Una tensione che durerà per tutta la vita, cioè fino a quando l'uomo non si sarà liberato di questa inclinazione adamitica. Come fare intanto per realizzare ora quello che si attuerà alla presenza di Dio? Non vi è nessun segreto, occorre alimentarsi dell'amore di Dio, in modo che l'inclinazione naturale della paura non sia così tanto forte da soffocare la consapevolezza di essere amati da Dio. E per fare questo, non vi sono tanti mezzi. Se la fede, secondo la Scrittura, procede dall'ascolto della parola di Cristo, anche l'amore nei confronti di Dio aumenterà mediante una sempre maggiore conoscenza di ciò che Gesù Cristo ha fatto e detto, una cognizione non altrimenti acquisibile se non mediante la lettura costante della sua parola, cioè la Bibbia. E, leggendo e studiando la Bibbia, che apprendiamo come e quanto siamo stati e siamo tuttora amati. Così il nostro pensiero si nutre dell'amore di Dio, rivelato in Cristo Gesù, più la naturale paura, che alberga e persiste in noi, è cacciata via, come se si volesse togliere l'olio da un bicchiere che ne fosse pieno a metà. Più acqua si verserà nel bicchiere, più l'olio, essendo più leggero dell'acqua, ne sarà cacciato fuori. Questa è una delle ragioni per le quali è necessario leggere la parola di Dio. Perciò commettono un errore fatale coloro che si dichiarano cristiani, ma lasciano alla loro guida spirituale il compito di leggere e studiare la parola di Dio, autorizzandoli in tal modo a diventare la loro coscienza, anche se, forse, inconsapevolmente. Innanzitutto sbagliano, perché tali persone potrebbero anche insegnare verità bugiarde, come fece il diavolo con Gesù nel citare la parola di Dio. Poi, il vero cristiano è colui che ha plasmato una coscienza proveniente da un rapporto personale intimo con il Gesù della Scrittura. Chi caccia la naturale paura solo con elementi religiosi ricevuti fin da piccolo, prima o poi, li troverà insufficienti a liberarlo da altri spaventi, come quello della morte. Ancora oggi, nessun capo religioso può parlare con certezza del suo futuro, a meno che non abbia accettato senza riserve l'amore di Dio in Cristo Gesù, quell'amore che ha tolto e cancellato, una volta e per sempre, ogni peccato, a causa dei quali l'accesso alla presenza del Dio tre volte santo gli era impedito. Solo in questo modo, la paura del giudizio divino viene cacciata via. Quando leggiamo che l'amore perfetto caccia via la paura, dobbiamo tenere in considerazione l'aggettivo perfetto, perché Dio ci vuole insegnare che l'amore da solo non è sufficiente a cacciare la paura. Anche in questo caso il termine perfetto non vuole dire senza imperfezioni, ma ha il significato di completo o compiuto. In questo modo, Giovanni sta dicendo ai suoi lettori che l'amore visto nel suo insieme, nella sua totalità, è in grado di cacciare via la paura. Cosa voleva dire Giovanni con il parlare di un amore completo? Può esistere forse un amore di Dio che non è completo? Sì, non nella sua natura, ma dal punto di vista del ricevente. Infatti molti di coloro che hanno creduto e accettato l'amore di Dio espresso in Cristo hanno risolto varie paure, ma in seguito vivono con altrettante tensioni e pesi che non dovrebbero esserci se avessero capito l'amore perfetto di Dio. Ringraziare Dio alla domenica e in altri giorni del calendario religioso è buono e saggio, ma vivere, in seguito, con soffocanti tensioni e paure nell'esistenza quotidiana corrisponde a rinnegare la sovranità di Dio e il suo potere di preservarci da ogni malazione. Cantare con gioia l'amore di Dio è buono e saggio, ma cercare, per paura di ottenere un tenore di vita al di là delle nostre possibilità, è rinnegare l'amore di Dio, il quale sa ciò che ci abbisogna. Pregare per i missionari e i perseguitati per la fede in Cristo è giusto e buono, ma se poi si vive con la paura, o il terrore di un tumore o della morte, si dimostra di non aver capito che l'amore di Dio è sempre presente in tutte le circostanze, in quelle che a noi sembrano buone, come in quelle che ci appaiono cattive. L'amore completo di Dio non permette questo. Se poi siamo riconoscenti per i peccati, perdonati, ma continuiamo a vivere con la paura del giudizio di Dio e ci presentiamo ancora davanti a Lui con richieste di perdono, perché la nostra coscienza non è stata purificata dalla parola di Dio, allora è segno che abbiamo accettato solo una parte del perdono di Dio, un amore, che non permette di cacciare via la paura. È vero che chi ha posto fede in Cristo ha ricevuto l'amore di Dio, ma è altresì vero che la maggioranza di essi terminano la loro esistenza senza aver sperimentato l'amore perfetto di Dio. Vivere senza avere a che fare con la paura della punizione di Dio in questa vita è un traguardo ai quali pochi arrivano, e proprio per questo sarebbe opportuno parlare molto di più dell'amore perfetto di Dio. Viene il sospetto che se non se ne parla a sufficienza è perché gli stessi insegnanti non lo hanno realizzato, soprattutto tra i religiosi formalisti. Come sapere se si appartiene a questa categoria? Se hai paura del giudizio di Dio per questa vita e nell'altra, l'amore che nutri per Dio è limitato, o forse inutile. Pensarci è un obbligo. 3. Uno spirito di autocontrollo. 3. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di autocontrollo. 2 Tim 1, 7. La vita è tutta una lotta, un combattimento. È una lotta per la sopravvivenza, perché se non si è accorti, ci si ammala e si muore. È una lotta per la convivenza, perché abbiamo a che fare con le più disparate persone, e se non stiamo attenti, non riusciamo ad avere un giusto rapporto con gli altri. E pure una lotta contro l'ingiustizia, con la quale abbiamo a che fare ogni giorno in mille circostanze. Non è esagerato paragonare la nostra vita a quella dei grandi conquistatori di terre come Giosuè, che doveva per ordine di Dio occupare la terra promessa. Perciò sono attuali per noi le parole rivolte da Dio a Giosuè. Mosè, mio servo, è morto. Or dunque alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, ai figli di Israele. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non tellette, o io comandato, sii forte e coraggioso. Non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Giosuè 1.29. Molti uomini di Dio hanno compiuto grandi cose, ma ormai sono morti, non ci sono più. Noi siamo rimasti soli con la promessa di Dio che ci sarà accanto come è stato con loro. Non solo. Anche Gesù disse ai suoi discepoli che sarebbe stato con loro, e di conseguenza questa è una promessa valevole per tutti coloro che hanno posto una reale fiducia in Lui. Quindi, facendo proprie tali promesse, il credente affronta le lotte della vita con la profonda consapevolezza di non essere solo. E questo lo rende sereno e ardito. Nonostante tutto, le difficoltà rimangono difficoltà e non spariscono come passa il dolore a un bambino che riceve un bacio sulla bua dalla mamma. Le lotte rimangono lotte e, a volte, sembrano pure insostenibili. Si prova allora un certo disagio. Perché, forse, si pensava che con Dio tutto sarebbe stato molto più facile, mentre non lo è per niente. Se Dio è onnipotente, perché non sperimentiamo questa onnipotenza nella lotta? Nel nostro piccolo smarrimento, ad un tratto notiamo un ordine di Dio che ci lascia perplessi. Sii forte e coraggioso. E questo per ben 3 volte. come se ciò non bastasse, aggiunge non aver paura e non sgomentarti. Gesù, non da meno, dice le stesse cose. Ecco, l'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni 16.3-2.33. Come? Dio e Gesù sono con me, ma mi dicono di farmi coraggio. Come mai? La vita cristiana non è forse una vita sostitutiva, cioè non è Cristo che vive in me, non è la sua potenza che dovrebbe operare in me e riuscire a controllarmi con molta facilità. È vero, ma come in tutte le verità, vi è il risvolto della medaglia. Dio mi ha fatto partecipe della sua natura divina perché io possa camminare secondo i suoi comandamenti, perché possa vincere questa natura adamitica inclinata al male, ma vuole altresì la mia collaborazione, altrimenti sarei un semplice robo che obbedisce per forza agli ordini ricevuti. I cristiani non assomigliano a coloro che sono impossessati dai demoni, i quali in stato di trance sono costretti a ubbidire agli spiriti maligni, invece essi sono persone libere e coscienti, che si sottomettono volontariamente all'azione della persona dello Spirito Santo, collaborando con un atto di volontà. Allora si potrebbe concludere: il credente è meritevole quando compie la volontà di Dio? No, nessun merito per la salvezza e per la santificazione, perché dalla persona dello Spirito Santo, il credente ha anche ricevuto uno spirito di autocontrollo, o come rendono altre versioni, uno spirito di disciplina, di sobrietà. In definitiva, colui che si è arreso completamente a Cristo è stato equipaggiato opportunatamente per combattere ogni inclinazione malvagia. Questo la dice lunga. Spesso, quando si porta il Vangelo alle persone, si invita a porre fede in Cristo perché, con tale fede, dopo, tutti i problemi saranno risolti. Così, le persone stanche della vita e variamente travagliate, pur avendo qualche dubbio invogliate da tale prospettiva, credono in Cristo. Solo che, come disse un giovane intraprendente, dopo aver creduto in Cristo le inclinazioni malvagie sembravano aumentate. In effetti, sì, ed è il vero. Solo che non sono le attitudini naturali a essere accresciute, ma, piuttosto, è il Santo Spirito di Dio a evidenziarle. Infatti Paolo scrisse: la carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Galati 5.17. Dunque, se vi era una lotta esteriore prima della conversione, ora il credente ha pure una non piccola lotta interiore giornaliera. Ci mancava solo questo, vero? Se Dio non ha dato al cristiano uno spirito di paura ma di autocontrollo, allora tante cose devono occupare il loro giusto posto. Innanzitutto, le nostre inclinazioni sbagliate si possono vincere solo con una forte determinazione a qualsiasi costo. Non c'è e posto tra i cristiani per i pusillamini né per gli indolenti e indeterminati. Purtroppo, molti credenti pensano o si aspettano che la vita cristiana sia un viaggio in prima classe, sul treno più bello. Non a caso, Gesù disse che un quarto di coloro che hanno udito il Vangelo se ne tornano indietro, dopo aver realizzato ostacoli e sofferenza a causa del suo nome. Inoltre, deve cadere il mito o il sogno che per servire Dio si debba essere esenti da ogni determinazione. Davanti all'ordine perentorio di Gesù, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. Forse lasciamo correre la parola tutto, sebbene compaia 4 volte. Essa tuttavia indica niente meno di un impegno totale e assoluto e non qualche ritaglio del nostro cuore, della nostra anima, della nostra forza e della nostra mente. Per questo Gesù precisò che il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Matteo 11.12. Con queste parole, Gesù non si riferiva alla violenza sugli altri, ma quella veemenza o determinazione occorrente per controllare se stessi. La vita cristiana è un combattimento, anzi il buon combattimento della fede, 1 Timoteo 6.12, è una vera guerra contro tutti quegli impulsi naturali che ci allontanano da Dio. È vero che Gesù sulla croce ha già vinto il maligno e la nostra volontà sbagliata, ma è una vittoria virtuale che aspetta solo di essere confermata dai fatti che si compiono davanti alla corte celeste. Così, a noi credenti in Cristo spetta di lottare e combattere con tutte le nostre forze e la nostra volontà per non avere cura della carne, per soddisfarne le sue concupiscenze. Romani 13.14. A noi spetta di farci risolutamente forza, come se Dio non ci fosse. Questi sono gli opposti della vita cristiana, una grandissima fede in Dio, unita a un'ostinata volontà di volersi controllare e dominare. Il capo dell'esercito del re Davide, cioè Joab, trovandosi in battaglia in una situazione molto pericolosa, disse a suo fratello Abishai: «Sii coraggioso e mostriamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio, e l'Eterno faccia ciò che a lui piacerà». 2 Samuele 10.12. Cioè facciamo la nostra parte e lasciamo a Dio il risultato del nostro impegno. Chi non ha capito che Dio non fa quello che spetta a noi, così come noi non dobbiamo fare quello che spetta Dio, è costretto a vivere un cristianesimo irreale, non umano, e non riuscirà ad essere disciplinato. Rimarrà un figlio di Dio, certo, ma un figlio di Dio non reso mansueto. Un figlio di Dio, con un brutto carattere. Una fede eterna. Spesso serve a poco discutere per difendere la veridicità della propria religione. In genere chi è nato in una data cultura non può considerare obiettivamente il credo religioso che professa. Un musulmano che crede e professa la propria religione non può porsi delle domande in merito alla sua confessione di fede, nata 600 anni dopo Cristo. Come un induista, non può credere ad una verità assoluta, dato che professa di credere a 300 milioni di dei, al numero già ingente dei quali, di tanto in tanto, ne sono aggiunti altri, come pure un cattolico, al quale è richiesto di accettare a scatola chiusa i dogmi della fede, di volta in volta, stabiliti dal magistero. Nello stesso modo, chi si professa cristiano potrebbe appartenere a una di queste categorie di persone la cui fede è mutevole. Ma non è così. Colui che ha posto una fede salvifica in Gesù Cristo e ritiene la parola di Dio come sua unica autorità in materia di fede e di condotta ha una fede eterna, cioè una fede immutabile. Nella sua breve lettera, Giuda spiega le ragioni del suo scritto rivolto a degli ebrei diventati Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo, misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna. Empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, e Signore Gesù Cristo. Giuda 1.14. Come succede anche oggi, si è sempre tentato di discreditare la fede cristiana e Giuda, fratello di Giacomo e fratellastro di Gesù Cristo, per questa ragione, si è sentito costretto a scrivere una lettera per esortare i credenti a combattere strenuamente per la fede, una fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Se teniamo presente il contesto storico e culturale, la missiva di Giuda è veramente singolare. Giuda e i suoi lettori erano ebrei e in quanto tali erano il solo popolo. Aver fede nel Dio vero e creatore rivelatosi sul monte Sinai, un credo quindi che inizia prima della creazione del mondo, il più antico esistente, più antico anche di quello professato dagli induisti, che si perde nella notte dei tempi. Per questo la fede cristiana, anche se è un ampliamento della fede ebraica, è eterna, immutabile nei suoi valori eterni. Nulla si può aggiungere, nulla si può togliere. Ciò che è stato scritto, è scritto. Per questo motivo, mi trovo molto in imbarazzo nel considerare come il Vangelo di Gesù Cristo, proposto al giorno d'oggi, non sia più quello genuino professato dai primi cristiani. Si presentano un Gesù e suo padre come alternative ad altri dei, mentre il Vangelo non è altro che un messaggio moralistico per migliorare il comportamento degli uomini. Tutto ciò mi induce a tornare alla fonte genuina perché, come si sa, un fiume più si allontana dalla fonte, più si inquina. Non potendo però tornare indietro di 2000 anni, sono attratto nel leggere ciò che era scritto anche solo 100 anni fa. Essendo ora, nel 21° secolo, il messaggio su Cristo è differente da quello di prima. Perciò propongo alcuni scritti che, a mio avviso, non devono essere dimenticati. Gesù di Nazareth, senza soldi e senza armi, ha conquistato milioni di persone più di quanto non fecero Alessandro, Cesare, Maometto e Napoleone. Senza scienza e senza cultura, ha sparso più luce sulle cose umane e divine di tutti i filosofi e di tutti gli studiosi messi insieme. Senza avere l'eloquenza delle suole, ha pronunciato parole di vita come mai sono state dette prima e dopo di lui, producendo effetti che vanno al di là della portata di un oratore o di un poeta. Senza aver mai scritto una sola parola, ha messo in moto una schiera di penne ed ha fornito il tema per una infinità di sermoni, orazioni, discussioni, opere d'arte, libri di cultura e dolci inni di lode, più di quanto non abbia mai potuto fare l'intero esercito dei grandi uomini del passato e del presente. Nato in una stalla, crocifisso come un malvivente, egli dirige ora i destini del mondo e governa un impero spirituale che abbraccia la maggior parte degli abitanti della terra. Philip Schaff. Un grande missionario e statista ebbe a dire, dopo aver visto gli effetti prodotto dal vero Vangelo: il Vangelo non solo converte l'individuo, ma cambia la società. Sin dai giorni di William Carey, i missionari in tutte le loro zone hanno attuato un vero Vangelo sociale. Hanno stabilito norme di igiene e di pulizia, promosso l'industria, elevato la dignità della donna, represso le usanze antisociali, abolito il cannibalismo, hanno impedito i sacrifici umani e la crudeltà, hanno organizzato i soccorsi per quelli che soffrono la fame, frenato le guerre tribali e modificato la struttura sociale della comunità. Samuel Zweimer. Il Vangelo che si predica oggi produce questi effetti in una persona e nella società? Oppure, chi lo predica cerca disperatamente e prima di tutto un accordo con il mondo e le altre religioni? Per arrivare ad una falsa pace non istituita da Gesù. Non c'è mai dubbio che Gesù sia stato il più grande rivoluzionario della storia, per questo non è paragonabile a nessun altro. Di lui è stato detto: la testimonianza resa all'opera attuale di Gesù non è meno concreta di quanto non lo sia stata in passato. Esaminando il caso di tutti gli altri grandi nomi della storia, si avrà sempre la stessa inevitabile ed invariabile realtà. E cioè che all'inizio quella determinata persona era una potenza, poi diventò soltanto un nome, ed infine un mero ricordo. Di Gesù invece è accaduto proprio il contrario. Morì su di una croce di vergogna, il suo nome divenne gradatamente sempre più potente. E oggi è colui che esercita il maggiore influsso sul mondo. L'attuale condizione sociale degli uomini, delle donne, dei fanciulli è così ben nota a noi tutti che qualche volta non riusciamo a renderci conto di come fosse prima della nascita di Gesù. Nel mondo romano il genitore aveva un potere assoluto sui figli, poteva venderli, farne degli schiavi, ucciderli. È stato il cristianesimo che ha reso impossibili simili atrocità. La donna era considerata come un bene vivente del marito, così come accade ancora in alcuni paesi di questo mondo. E, proprio grazie al cristianesimo che essa ha potuto ottenere una nuova condizione sociale, ed ora nei paesi cristiani le è riconosciuto il suo vero e proprio significato. La schiavitù era una delle caratteristiche più radicate nell'impero romano. Il potere del padrone sullo schiavo era assoluto e veniva spesso esercitato con crudeltà e ferocia. Ma il cristianesimo proclamò l'universalità e la fratellanza di tutti gli uomini in Cristo, colpendo così alla radice la schiavitù. E dovunque sia arrivato il Vangelo di Cristo, la schiavitù è stata costretta a scomparire. W. H. Griffith Thomas. Proprio per questo motivo uno scrittore disse di Gesù: sono passati 19 secoli, e oggi egli è il perno della razza umana, è colui che guida la colonna del progresso. E un dato di fatto che tutti gli eserciti che hanno marciato su questo mondo, tutte le flotte che sono mai state costruite, tutti i parlamenti che si sono riuniti su questa terra, e tutti i re che vi hanno regnato, tutti questi messi assieme non hanno influito minimamente sulla vita terrena dell'uomo, quanto invece ha potuto fare quell'unica persona isolata. Sono riflessioni molto pesanti, soprattutto in un'epoca nella quale Gesù è paragonato ad altri fondatori di religioni. Il Vangelo di Gesù, cioè la notizia di ciò che ha fatto, non è paragonabile a nessun altro, perché per quanto uno abbia detto cose straordinarie o fatto anche i più grandi miracoli da abbagliare il mondo intero, nessuno, ma proprio nessuno, è morto a causa dei peccati di tutti gli uomini per riconciliarli con Dio. Ciò che Gesù ha fatto e detto è unico. Anche se sembra una forte contraddizione, purtroppo arriverà il momento nel quale Gesù sarà sì nominato, sarà sì proclamato, ma ancora una volta non come si deve. Non è un'opinione pessimistica, né un vago sentimento, perché Gesù stesso dirà a coloro che lo hanno proclamato e hanno creduto in lui: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Io non vi ho mai conosciuto. Si può credere in Gesù Cristo, ma negandone l'opera redentrice, come succede ancora oggi. È innegabile che nella religione cattolica romana si insegni che Gesù è morto in croce, ma di fatto lo si fa negandone la potenza. Nei loro culti, infatti, i cattolici romani continuano a chiedere perdono dei loro peccati, quando gli stessi conduttori spirituali e il capo della religione, cioè il Papa, insegnano che Gesù Cristo, morendo in croce, ha riconciliato l'uomo a Dio. Affermare, sostenere, insegnare che Gesù è morto per tutti i peccati e, tuttavia, chiedere ancora perdono per i propri peccati, cercando di ottenere la salvezza per mezzo di opere meritorie, significa disonorare l'opera di Cristo e il piano di Dio. Come l'apostolo Giovanni, riteneva bugiardo colui che credeva in Gesù, ma senza confessarlo come il Cristo, 1 Giovanni 2.22, non credendolo, cioè il Messia, il Redentore del mondo promesso da Dio, così è possibile considerare bugiardo colui che leggendo la Bibbia crede in Gesù, ma ne nega l'opera di salvezza, quale unica, sufficiente e eterna. Quando Giovanni scrive, questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, 1 Giovanni 3.23, voleva proprio intendere questo. Credere nel nome di Gesù non significa credere alle parole Gesù Cristo, ma al valore spirituale di tutta l'opera di Gesù. Chi ha posto la giusta fede in Gesù ha una vita rivoluzionata e rivoluzionaria, passando da un culto di richiesta ad un culto di riconoscenza per il perdono eterno ricevuto, e possiede pure la certezza di una salvezza eterna. Questo era il messaggio eterno dei primi cristiani, è stato il messaggio eterno dei cristiani che ci hanno preceduto anche un secolo fa, e deve essere il messaggio di oggi, perché, come è scritto, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito di udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. 2 Timoteo 4:3. Il cristiano armato di una gelosia di Dio continuerà a proclamare quella fede che è stata tramandata una volta e per sempre ai santi, senza stancarsi, e se occorre, come è profetizzato, lo farà a costo della propria vita. Gesù disse: chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Luca 9.24. Vale la pena di proclamare ogni giorno la fede che è stata tramandata una volta e per sempre ai santi. Tutte le cose cooperano al bene. Mi trovavo in una riunione di giovani per festeggiare il compleanno di una ragazza. Fu proposto a tutti di esprimere un pensiero di incoraggiamento perché, come si sa, la vita offre momenti difficili, momenti scoraggianti, e alcune parole buone fanno sempre bene. Ad uno i ragazzi iniziarono a parlare, chi con pensieri tratti da discorsi di persone adulte, chi con auguri vari, chi con promesse di Dio tratte dalla Bibbia e chi con semplici parole di amicizia. Arrivato al mio turno, non avevo dubbi su cosa dire, così apersi la Bibbia e lessi nella lettera ai Romani al capitolo 8. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. 8:28. La ragazza rimase un poco perplessa e mi chiese la spiegazione di questa promessa di Dio. Fui ben felice di poterle spiegare il significato di queste parole, ma rimasi sorpreso, a mia volta, che non avesse avuto ancora la possibilità di conoscere la spiegazione di una delle più belle promesse lasciateci da Dio. Questa si articola in 4 punti. 1. Noi sappiamo 2. Tutte le cose 3. Cooperano al bene 4. Per coloro che amano Dio. 1. Noi sappiamo. Possedere un cosa e non esserne a conoscenza addolora ancora di più mancarne. Ma il Dio dei cristiani ha risparmiato questo dolore e, amando i suoi figli e trattandoli come amici, fa sapere loro ciò che possiedono, anche perché con tale consapevolezza i cristiani possano rallegrarsi e vantarsi. Non a caso, nelle loro lettere, gli autori biblici si preoccupano di far sapere i piani di Dio e le sue promesse ai loro lettori. Questo è una delle fondamentali differenze tra l'incredulo, il religioso e il credente. L'incredulo non sa dove va, il religioso non sa perché si comporta in un certo modo, il credente sa perché fa o non fa una certa cosa e, con questa promessa, sa pure che tutto confluisce al suo bene. Con una simile conoscenza, com'è possibile vivere una vita trascinata o piena di sconforto? Se uno non sapesse che tutto alla fine torna a suo vantaggio, sarebbe possibile lo scoraggiamento. Ma quando sai con convinzione che nulla può toglierti del bene, non ti resta che una profonda riconoscenza e gioia divina. Se nel crollo della mia casa trovassi un tesoro, non sarei felice di questa sventura? Se nello sbagliare strada scoprissi di aver trovato una scorciatoia, non mi rallegrerei di questo sbaglio? Se un dolore terreno mi portasse a conoscere Cristo, non ringrazierei Dio per la sofferenza avuta? Questo è possibile solo se io so che tutto coopera al bene. Però, attenzione, la Bibbia non dice che io vedo il tutto cooperare al bene, ma che lo so, il che è diverso. Io vedo che tutto va male, vedo sconfitte, vedo perdite. Mi rallegro meno, apparentemente senza senso, meno del bene ricevuto, perché so che le cose sono diverse. 2. Tutte le cose. Il termine tutto è totalitario, non lascia alternative. Così, nel tutto non ci sta solo il bene, o quello che non è proprio l'ideale, ma anche ciò che è evidentemente male e, pure, disastroso. Un incidente stradale, una gamba rotta, una perdita di migliaia di euro non sono avvenimenti carini né piacevolmente accettabili. Eppure, chi ha la mente di Cristo, una mente rinnovata, vede quei lati positivi che ti permettono di accettare serenamente le conseguenze. Bill Borden, un giovane missionario che ardeva per l'opera di Dio, partì ancora molto giovane per annunziare l'Evangelo in Asia, ma colto da malaria orientale, dovette desistere dal suo obiettivo. Quando contrasse la malaria orientale, che gli fu fatale, ebbe tuttavia il tempo di testimoniare che tutto stava cooperando per il suo bene, lasciando scritte queste parole: nessuna riserva, nessun indietreggiamento, nessun rimpianto. Egli sapeva che il suo desiderio di predicare il Vangelo fuori dalla sua patria non era stato esaudito, ma sapeva anche che tutto non soltanto non era inutile, ma tornava a suo vantaggio. In effetti, ciò che ha scritto è stato letto da milioni di persone, lasciando in loro un impatto forse maggiore di quanto non sarebbe stato se fosse vissuto molti altri anni. Come disse Gesù: in verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Giovanni mezzogiorno 24. Facile da leggere, anche facile da predicare. Ma tu saresti disposto a lasciare ora questa terra, se la tua morte producesse molto frutto? Frutto per l'opera di Dio? 3. Cooperano al bene. I sinonimi di cooperare sono collaborare, aiutare, contribuire, concorrere. Tutti verbi che indicano la bontà e l'utilità di una certa cosa. Come nel caso di Esther Costello, una ragazza cieca, sorda e muta, la quale fu guarita, sì, ma solo dopo aver subito uno stupro da parte del marito di sua madre. Il credente che presta fede a occhi chiusi a questa promessa, oltre che esserne consapevole, cercherà pure meno con l'aiuto di Dio di vedere e trovare i lati positivi in come i suoi. Se crede che le vie di Dio non sono comprensibili, allora meno senza fatica e senza irritazione chiederà sapienza per trovare una soluzione accettabile che onora Dio. In fondo, meno se si vuole essere obiettivi, ciò che Dio chiede a coloro che lo temono è una fiducia incondizionata e non tanto la comprensione delle sue vie. Proprio per questo sono riconoscente al mio Dio Trino, perché se dovessi agire per comprensione sarei tormentato e destinato all'angoscia, mentre se devo solo fidarmi posso farlo. Il punto è questo. Fidarsi di qualcosa che comprendono lo fanno anche gli increduli. Fidarsi invece anche quando non si capisce lo possono fare solo i quattro, per coloro che amano Dio. Questo quarto particolare della promessa di Dio è fondamentale. La promessa che tutte le cose cooperano al bene, anche se è illimitata, non è rivolta a tutti gli uomini. In effetti, solo per coloro che amano Dio, tutte le cose cooperano al bene. Sarei tentato di dire che anche per coloro che non amano Dio tutte le cose cooperano al bene, perché in effetti Dio ama, cioè procura del bene meno a tutti gli uomini, come il sole scalda sia i buoni sia i cattivi. Ma se per gli increduli non tutto coopera al bene, ciò non è dovuto a Dio, ma agli increduli. Se una nave sta affondando e da un'altra nave, di salvataggio, giungesse a tutti i passeggeri l'esortazione a lasciare la nave mortale, l'invito coopererebbe al bene di tutti. Ma se alcuni non ascoltano l'invito, essi scelgono ciò che procura loro danno. Chi ama Dio ama se stesso, perché nell'amare Dio, cioè nell'osservare i suoi comandamenti, meno si procura del benessere e, in seguito, vedrà che tutto coopera per il suo bene. Infatti Dio non ha dato delle leggi a sfavore del benessere dell'uomo, ma leggi intese per il suo benessere terreno e futuro. In una società come quella di oggi è difficile sapere cosa si intende per amare Dio, perché concetti romantici hollywoodiani hanno sconvolto e condizionato la nostra mente. Perciò è opportuno prendere in prestito espressioni bibliche. Ne prenderò una sola dall'Antico Testamento, scritto prima che Gesù parlasse di amore cristiano. Secondo l'Antico Patto, amare Dio voleva dire fare ciò che è giusto agli occhi di Dio, Deut 13.18. Il che vuole dire comportarsi non secondo i canoni della società né secondo la propria morale, ma osservare i comandamenti di Cristo, così come sono espressi nella parola di Dio, cioè la Bibbia. E, se un comportamento non è secondo il volere di Dio, come avere altre divinità o avere altri mediatori tra Dio e gli uomini, questo deve essere abbandonato. Come sta scritto, il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque nomina in nome di Cristo. 2 Timoteo 2,19. Dunque, è vero che solo Dio conosce chi crede veramente in Lui, ma è altresì vero che chi crede veramente in Cristo deve dimostrarlo, ritraendosi da ciò che Dio ritiene iniquità, ingiustizia o malvagità. Chi non osserva questa regola, per quanto provi un sentimento di affettuosità nei suoi confronti, non può dire di amare Dio e di conseguenza non può neppure essere partecipe della bellissima promessa che Dio ha fatta, cioè tutte le cose cooperano al bene. Giugno 2012, Ellero,